Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Ripartiamo con una nuova settimana dedicata a tutte le vostre questioni finanziarie, economiche e familiari. Il tema della conflittualità con la banca è stato più volte affrontato dalla nostra trasmissione in passato, soprattutto adesso per la verità un po' meno, perché come dire, forse rispetto a tanti anni fa è diventato un pochino più facile dialogare con la banca, abbiamo come consumatori raggiunto una maggiore capacità contrattuale e però rimangono sempre le ragioni più disparate per sporgere un reclamo contro lo sportello, contro un istituto di credito. Le condizioni del conto corrente, il trasferimento del mutuo, il bonifico che non è andato a buon fine, il problema con la carta di pagamento, i servizi di investimento. E allora, oggi le strade per gestire, risolvere, dirimere una controversia con la banca sono diverse e possono anche essere praticate alternativamente. Ma bisogna fare anche delle precisazioni sui percorsi che si possono intraprendere, perché possono essere diversi in relazione al reclamo da sporgere e di conseguenza possono avere anche un maggiore chiaramente successo e sono anche percorsi diversi a seconda del valore economico appunto della controversia che si vuole attivare contro la banca. Allora, anche per evitare di perdere tempo, perché il tempo è denaro e nessuno di noi ha da perderne, è bene che si conoscano le caratteristiche di tutti gli strumenti a nostra disposizione, perché bisogna avere anche i tempi di risposta chiari in testa, quelli che si possono pretendere. E allora oggi noi vi spiegheremo come funzionano i tre principali strumenti di giustizia alternativi alla magistratura in materia bancaria e finanziaria. Tre, dicevamo, sono i tre che indica anche stamattina la pagina di Affari Privati delle Sole 24 Ore, sono l'arbitro bancario finanziario, l'ombudsman giuri bancario e l'organismo di conciliazione bancaria. Tutte queste novità, peraltro, hanno intensificato la loro attività soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Stamattina, vi ribadisco, faremo il punto della situazione intanto con la collega del Sole 24 Ore che ha coordinato questa pagina, Nicoletta Cottone, in collegamento dagli studi di Roma del Sole 24 Ore. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Poi siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Giuseppe Tiracorrendo, segretario generale del Conciliatore Bancario. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, sono in collegamento. Sì, eccoci qua, grazie anche a lei per essere con noi questa mattina, perché anche qui vanno fatte delle precisazioni. Noi tanti anni fa, avvocato, facciamole subito prima di andare avanti con la trasmissione, così almeno sappiamo bene di ciò di cui stiamo parlando. Noi tanti anni fa, Salva Danaio, facevamo tantissime puntate sull'ombudsman bancario. Adesso c'è stata un'ulteriore evoluzione di tutti i servizi di conciliazione, peraltro la materia della conciliazione sarà obbligatoria a partire da marzo e probabilmente intensificheremo anche le nostre trasmissioni con la vostra collaborazione. Però oggi nell'ambito bancario ci sono due strade che si possono percorrere, poi faremo anche il punto sull'arbitro, però voglio sapere esattamente il conciliatore bancario qualcuno pensa sia istituito all'interno o nell'ambito appunto dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. In realtà non è esattamente così, mi aiuta a fare subito questa precisazione, avvocato? Sì, volentieri. Il conciliatore bancario è un'associazione che è stata costituita da molte banche, però anche dalle Poste Italiane e da molte società finanziarie, proprio per andare incontro alle esigenze della clientela e mettere a disposizione più strumenti per risolvere le controversie in modo stragiudiziale, vale a dire senza dover ricorrere al giudice. Gli strumenti fondamentali sono due, vale a dire l'ombudsman giuribancario di cui lei ha fatto cenno e l'organismo di conciliazione bancaria, di cui adesso parlerò molto brevemente. Poi esiste anche un terzo servizio di cui oggi comunque non parleremo, è l'arbitrato, ma è un istituto molto molto conosciuto in Italia e quindi non rappresenta una grande novità. Mm. L'Ombudsman è stato istituito nel 1993 ed è un collegio giudicante composto da 5 persone molto esperte in materia, che sono designate in questo momento dal Presidente del Consiglio di Stato, che designa e nomina il Presidente di questo collegio giudicante. 2 esponenti sono designati dalla clientela, uno dalla clientela cosiddetta retail, quindi dal CNCU, che è il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, quindi si tratta fondamentalmente di un esponente dei consumatori, un altro designato da Confindustria e le altre Conf che rappresentano le imprese, e gli altri ultimi due componenti sono invece designati dal sistema bancario, in particolare dall'ABI. Sono scelti però tra i componenti e gli iscritti nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e nel Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Quindi questa è la composizione del collegio Ombudsman, che è un collegio che decide le controversie, vale a dire, attraverso una procedura sulla quale magari poi ci soffermeremo, Quando arriva una controversia il collegio decide chi ha torto e chi ha ragione, e quindi questa è una strada ben precisa. L'altra strada è molto diversa, è quella dell'organismo di conciliazione, vale a dire si tenta la strada di mettere d'accordo le due parti, vale a dire l'intermediario finanziario e il cliente. Quindi non si arriva ad una decisione, non si arriva ad una sorta di un giudizio, ma attraverso un professionista autonomo, che in genere è un conciliatore, vale a dire un avvocato, un professore, un commercialista, un notaio, comunque una persona molto esperta in materia e assolutamente indipendente, attraverso questa figura si riuniscono entrambe le parti, ripeto l'intermediario e il cliente si riuniscono, e il conciliatore tenta a queste parti di far raggiungere un accordo, vale a dire li aiuta attraverso tutta una serie di tecniche. Se avremo tempo ne parleremo. Senz'altro. No, io la interrompo, avvocato, solo perché ho voluto farle fare subito questa precisazione che ci sembrava doverosa, solo per far capire agli ascoltatori che cosa è cambiato rispetto all'attività dell'Ombudsman rispetto al passato, quando eravamo abituati appunto a mettere a disposizione i rappresentanti di questa organizzazione, molto spesso appunto a disposizione appunto dei nostri ascoltatori. Per cui adesso entreremo anche nel merito delle modalità con cui si può fare ricorso a questi due differenti organismi. Ne abbiamo anche il terzo, molto importante, molto più recente, è l'arbitro bancario finanziario, questo voluto dalla Banca d'Italia. Adesso la collega Nicoletta Cottone ci dirà tutto anche in merito a questo. Non ho fatto però il consueto percorso tradizionale di Salvadanaio di inizio trasmissione, che appunto ci porta in genere anche a raccontare cosa succede in borsa. Lo faccio molto rapidamente. Oggi è una giornata positiva, contrariamente a come era iniziata, perché era iniziata con il segno meno su tutti i listini finanziari. Adesso c'è un cambio di direzione, tutti positivi: Parigi più 0,17, Francoforte più 0,46, Londra più 0,02, scatta invece Piazza Affari in rialzo dello 0,8%, per i rialzi che oggi interessano Unipol più 2,22, Finmeccanica più 1,89, Ubibanca più 1,76, Intesa più 1,59 dopo l'accordo della notte sugli esuberi Unicredit in rialzo dell'1,56%, abbiamo in discesa dello 0,8 Ansaldo, di mezzo punto Lottomatica e Mediaset. L'euro sul dollaro recupera 1,39, ma è molto indietro rispetto invece alle quotazioni raggiunte venerdì a 1,41,50. Chissà cosa verrà deciso o stabilito o discusso a Shanghai, dove oggi si svolge l'atteso vertice dei banchieri centrali convocati dal Fondo Monetario Internazionale per fare il punto su questa guerra di valute che si è scatenata negli ultimi 15 giorni. Lasciamo subito la borsa. Il tema di oggi la facciamo ascoltare, la scheda, sì, perché sennò Gaia penserà di aver lavorato inutilmente. Ribadiamo un po' tutte le vie per poter conciliare con la banca, quelle che si sono attivate di recente, come hanno funzionato. Sentiamo. Conti correnti troppo cari, problemi con il mutuo, ma anche con gli investimenti e la gestione del risparmio. Se ci si trova in difficoltà con la propria banca o con un altro intermediario, ci sono diverse strade da percorrere per tentare di risolvere la questione. L'arbitro bancario, l'Ombudsman e l'organismo di conciliazione bancaria. Festeggia in questi giorni il suo primo compleanno l'arbitro bancario finanziario, figura indipendente voluta da Banca Italia, che dal 15 ottobre 2009 è presente come alternativa stragiudiziale per aiutare clientela, banche e intermediari a trovare una soluzione a controversie e reclami. I casi più frequenti riguardano conti correnti bancari e postali, seguiti da mutui e contratti bancari in genere. Nel presentare questi ricorsi, per i quali non è necessaria l'assistenza di un avvocato, vanno tenute a mente poche semplici regole. Devono riguardare operazioni o comportamenti avvenuti dal 2007 compreso in poi. Serve versare un contributo spese di 20 euro, che in caso di vittoria verrà rimborsato, e bisogna aver già fatto un tentativo di soluzione diretta con l'istituto di credito, che è obbligato infatti ad avere un apposito ufficio reclami o un addetto responsabile. Resta attiva, in parallelo, anche la figura dell'Ombudsman, o giuri bancario. con l'arrivo dell'arbitro, ha corretto il raggio d'azione delle sue competenze, concentrandosi sulle liti relative a titoli, investimenti e tutti i servizi e consulenze effettuati nell'ambito del risparmio gestito. Controversie che possono essere risolte anche grazie al sistema di conciliazione e arbitrato della Consob. 800 24 00 24, non vi ho ancora ricordato il numero verde per intervenire, ma state già cominciando a telefonare, per cui conoscete già bene la modalità per interagire con noi. Allora, io adesso ho un minuto di tempo prima di andare già alla nostra prima pausa. Nicoletta, però mi sembrava carino anche darti il benvenuto, sentirti. Prima di raccontare, visto che tu ti sei occupata prevalentemente di questo per le pagine di Affari Privati, come funziona l'arbitro bancario, finanziario, appunto, organismo voluto dalla Banca d'Italia, ricordiamo anche che oltre su Affari Privati, anche sul sito del Sole 24 Ore c'è tutta la materia ben descritta, esattamente come succede sul giornale questa mattina, ma con qualche altro documento aggiuntivo. Sì, sul sito del Sole 24 Ore c'è anche un video con le istruzioni per l'uso, dedicato proprio all'arbitro bancario finanziario, e poi ci sono anche i modelli che il consumatore deve utilizzare per fare il ricorso. Benissimo, allora, quindi, per chi fosse interessato può curiosare anche sul sito. 30 secondi ce li possiamo concedere ancora, Nicoletta. L'arbitro bancario è sicuramente l'organismo, chiamiamolo così, conciliativo più recente del nostro paese, fortemente voluto da Via Nazionale, dalla Banca d'Italia. Sì, è l'ultimo nato, perché è nato il 15 ottobre dello scorso anno, quindi ha appena festeggiato il suo primo anno di attività. È un organismo indipendente, come diceva bene la scheda, che consente la risoluzione delle controversie fra clienti, banche e intermediari finanziari. È in realtà un'alternativa rapida ed economica al ricorso al giudice, al quale però, bisogna ricordare, ci si può rivolgere solo dopo aver presentato reclamo all'intermediario senza aver ricevuto una risposta entro 30 giorni, oppure se non si è soddisfatti della risposta ricevuta. Benissimo, allora, io vedo già dei casi che alcuni ascoltatori ci stanno presentando. Partendo da questi cercheremo di darvi le istruzioni per l'uso, per capire quando è meglio intraprendere un percorso piuttosto che un altro, ma poi chiaramente una strada o un'altra dipendono anche dal valore economico della controversia che decidete di attivare con la banca. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Cominceremo a sentirvi tra pochissimo. Oggi il Sole 24 Ore, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Sulle pagine di Affari Privati si occupa delle liti allo sportello bancario e quali percorsi possono essere intrapresi per risolvere queste controversie, che, lo sapete bene, sono molto diffuse. Allora, ovviamente, prima strada in genere ricorrere direttamente alla banca e all'ufficio reclami, tutte ne hanno. Se qui non risolviamo niente perché la banca non ci risponde o perché respinge il nostro ricorso, allora abbiamo altre alternative. C'è il conciliatore bancario, che è questa associazione specializzata appunto nella conciliazione bancaria, che gestisce l'attività dell'ombudsman giuribancario e della conciliazione bancaria. So che è tutto molto complicato, ma dobbiamo invece imparare ad avere un po' più di dimestichezza con l'attività di questi organismi. E poi c'è l'arbitro bancario finanziario, che proprio in questi giorni compie un anno ed è stato appunto istituito per volere della Banca d'Italia. Stamattina ne stiamo parlando con la collega del Sole 24 Ore, Nicoletta Cottone, con l'avvocato Giuseppe Tiracorrendo, segretario generale del conciliatore bancario. Le vostre domande all'800 24 00 24. Nicoletta, riprendo da te perché c'è un'ascoltatrice che ci scrive, Stefania da Chiavari, che ci racconta che ha fatto due prelievi Bancomat, ci cita il nome della banca. Sull'estratto conto si ritrova queste due commissioni per aver fatto questi due prelievi, una commissione di 8 euro e la seconda di 12. Allora, l'importo è molto modesto, però da quello che capisco l'ascoltatrice contesta il fatto che nessuno l'aveva avvisata del fatto che avrebbe dovuto pagare cifre così alte per prelievi di massimo 200 euro. Allora, magari, ecco, l'importo potrebbe scoraggiare naturalmente la contestazione intraprendendo i percorsi che stiamo indicando questa mattina. Però di fatto, che cosa può fare secondo te l'ascoltatrice? L'arbitro bancario di cui tu mi stavi parlando accoglie anche ricorsi per entità piuttosto modesta? Sì, se ne occupa spesso. Fra le altre, conti correnti, mutui e bancomat sono i temi, diciamo, più trattati nelle richieste che sono giunte all'arbitro bancario finanziario. Quindi cosa fare? Allora, innanzitutto deve rivolgersi, come hai detto prima, alla sua banca e chiedere conto. Altrimenti, anche se la cifra è bassa, si può comunque, dopo aver ricevuto una risposta negativa o dopo aver ricevuto una risposta che comunque non le è piaciuta, può rivolgersi all'arbitro bancario finanziario. Come si fa? Allora, bisogna pagare un contributo spese di 20 euro e poi bisogna compilare un modulo che si trova sul sito dell'arbitro bancario finanziario. E questo modulo poi può essere sia consegnato a mano nelle sedi della Banca d'Italia, ma può essere anche spedito via email, oppure può essere consegnato nelle sedi nelle segreterie tecniche della Banca d'Italia. Tra l'altro, ecco, magari questo è un percorso un po' più complicato, perché non è che ci siano ovunque uffici della Banca d'Italia, Nicoletta, quindi magari forse attiviamoci con l'indirizzo di posta elettronica, che sicuramente è, come dire, più immediato, no? Anche, speriamo, quantomeno. In ogni caso, comunque, l'arbitro bancario risponde sulla ricezione del ricorso? Nicoletta? Sì, risponde. Ci sono tre collegi, uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli, quindi in base alla propria regione di domicilio ci si deve rivolgere a uno dei tre collegi. E risponde perché nel primo anno di attività ha ricevuto circa 2600 ricorsi e ha dato circa 1200 risposte. Quindi, insomma, un'attività già molto intensa. E infatti, quali sono stati i temi ricorrenti che sono arrivati sul tavolo dell'ABF, Nicoletta? Gli scontri più ricorrenti, insomma, le liti più diffuse tra banca e cliente che arrivano a questo tavolo? Ma diciamo che per esempio sulla portabilità dei finanziamenti, che deve sempre essere gratuita, sono stati sanzionati dei comportamenti omissivi dell'intermediario che aveva ostacolato il cliente nell'esercizio di questo diritto, ed è stato sancito che è fonte di responsabilità per l'intermediario, con tanto di obbligo a risarcire il danno. Poi, per esempio, non so, la polizza assicurativa accessoria di un finanziamento è un altro tema che è stato trattato. L'arbitro bancario finanziario ha disposto che l'estinzione anticipata di un finanziamento comporta anche la risoluzione del contratto di assicurazione. Quindi le ulteriori rate del premio riscosse dall'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento devono essere restituite al cliente. Tra l'altro, ricordiamo, ci abbiamo dedicato anche una puntata di Salvadanaio settimana scorsa, c'è tutta ancora la partita da risolvere sulle assicurazioni allegate ai mutui, c'è un ricorso che pende presso il TAR del Lazio che deve essere anche definito, credo, nel giro di pochi giorni. E poi andremo anche agli altri casi. Nicoletta, però, so che c'è un bilancio molto accurato che è stato stilato dal conciliatore bancario, avvocato Tiracorrendo, nel periodo 1 gennaio 2009, 30 giugno 2010, anche presso i vostri tavoli, insomma, l'attività è stata piuttosto intensa. Quanti ricorsi hanno presentato i consumatori? Quanti ne avete definiti e risolti in un modo o in un altro? Allora, sono stati presentati circa 4.500 ricorsi in questo periodo, quindi 2009-2010. Va precisata una cosa, che fino al 15 ottobre del 2009 l'Ombudsman aveva una competenza a 360 gradi, esatto, vale a dire su tutte le materie bancarie e finanziarie. Dal 15 ottobre 2009 invece è entrato in funzione l'arbitro bancario finanziario e l'Ombudsman si occupa solamente di quelle problematiche di cui non si occupa l'arbitro, vale a dire l'Ombudsman si occupa delle problematiche relative ai servizi di investimento, vale a dire operatività in titoli. Comunque sono stati definiti sempre in questo periodo ben 5.300 ricorsi, perché evidentemente esisteva un residuo dell'anno precedente. Nell'ambito delle decisioni rileviamo che circa 2.159 decisioni sono state prese a favore del ricorrente, rappresentano il 56%, mentre 1.684 decisioni sono state prese a favore della banca o dell'intermediario, e ovviamente rappresentano un 44% dei casi. Ecco, insomma, abbiamo fatto bene anche a dire tutto questo, perché magari qualche volta, insomma, così un po' per partito preso ci arrabbiamo con la banca e cominciamo ad inoltrare ricorsi a destra e manca. Qualche volta facciamo anche attenzione, perché magari la banca ci ha dato tutte le informazioni che era necessario che avessimo, appunto, relativamente a qualunque questione, e invece noi pensiamo di essere nella ragione, e insomma siamo attenti anche a non perdere tempo su tante cose. Detto questo, c'è un ascoltatore che mi scrive: ma non è la signora che avete citato prima, prelevato con la carta di credito? Per la verità è venuto il dubbio anche a me, però lei, insomma, ci ha scritto che questi prelievi li ha fatti con il bancomat regolarmente, per cui è chiaro che è bene che si faccia dire dire, dalla sua banca, che tipo di trattamento c'è? Io so che magari un certo numero di operazioni forse possono essere gratuite, poi da un tot in avanti si pagano delle commissioni, appunto, anche per fare dei prelievi. Oggettivamente questi mi sembrano degli importi un po' troppo alti ed è giusto che l'ascoltatrice chieda giustificazioni alla banca. I servizi di investimento. Marco da Varese, la prima domanda di oggi è per lei. Buongiorno. Buongiorno. Marco, intanto le chiedo di abbassare la radio perché sentiamo un eco che mi fa mi mette un po' in difficoltà. Il mio caso è questo: il primo agosto 2008 io ho chiesto di passare da un fondo con linea azionaria su un fondo pensione a un fondo con linea obbligazionaria. Sì. Praticamente io poi mi sono accorto nel mese di febbraio del 2009 che ciò non era avvenuto. Io ho chiesto alla banca il motivo per cui non era avvenuto lo switch e la banca mi ha risposto: noi abbiamo inviato tutta la documentazione a Eurizon, perché il fondo è un fondo che una volta era San Paolo. Poi sì, conosciamo la società, ma adesso a prescindere dalla società bisogna capire. Praticamente il discorso è questo. Adesso Eurizon dice: io non ho ricevuto nulla, per cui la colpa è della banca. La banca dice: io quello che dovevo fare l'ho fatto e la colpa è di Eurizon. Marco, lei ce l'ha un po' di documentazione che certifichi che ha fatto questa richiesta? Io ho il modulo che ho firmato in banca, ho la risposta della banca che mi dice: sì, tu effettivamente hai firmato il modulo, noi l'abbiamo passato ad Eurizon, ma Eurizon non ha fatto il cambio. Eurizon dice: io ho verificato, non ho nessuna richiesta da parte della banca di passare la linea azionaria. Allora Marco, si fermi lì, perché qua tra l'altro lei ha fatto anche una considerazione interessante, ha detto che era un fondo pensione, qui c'è un altro organismo ulteriore che vigila su questo mercato, su questo settore, che è la Covip. Allora io adesso devo andare già ai suggerimenti per chi è in viaggio, ma siccome l'Ombudsman giuribancario vigila sui servizi di investimento e sulle modalità con cui le banche ottemperano anche agli ordini impartiti dalla clientela, avvocato, la lascio riflettere per un attimo su questo caso e vediamo insomma se si può dare o meno un suggerimento al nostro ascoltatore per far valere le sue ragioni. A tra poco. Allora, avvocato Tira Correndo, segretario generale del conciliatore bancario, adesso senza intervenire nel merito di questo caso, però potrebbe essere una situazione tipica che l'Ombudsman Giurì, visto che gestisce le questioni di servizi di investimento, potrebbe in qualche maniera esaminare se questo ascoltatore volesse fare ricorso a questo strumento? Sì, senz'altro. Il consiglio che si può dare all'ascoltatore è di fare un reclamo sia alla banca sia alla SGR, vale a dire la società che gestisce questo fondo. Passano determinati tempi, in genere variano dai 30 ai 90 giorni, ogni intermediario stabilisce un termine proprio, non esiste un termine unico. Se il cliente non riceve risposta o la risposta non è soddisfacente per il cliente stesso, ecco che può presentare in modo molto semplice un ricorso all'Ombudsman. Lo può scrivere autonomamente, non ci sono formule particolari, non ci sono moduli, e sarà poi l'Ombudsman stesso che chiederà sia alla banca sia alla SGR la documentazione e riuscirà quindi a capire effettivamente dove è nato il problema ed eventualmente di chi è la responsabilità. Anche perché qui non è che stiamo parlando di una commissione di 2 euro applicata ad un prelievo bancomat, qui ci può anche andare di mezzo un rendimento di una linea di investimento importante. Questa persona l'ha sottoscritto questo prodotto ai fini della sua pensione, per cui sono anche 2 anni che potrebbero essere andati persi per lui, per cui è chiaro che ha tutte le ragioni di avere delle giustificazioni rispetto a questo comportamento. Se poi magari ci piacerebbe anche indagare un po' di più, chiedo all'ascoltatore se ci volesse scrivere, quindi magari ci rivolgiamo direttamente anche alla società. Detto questo, avvocato Tira Correndo, ancora per intraprendere il percorso dell'Ombudsman giuribancario o dell'organismo di conciliazione bancaria, che spese deve sostenere un ricorrente, quindi un consumatore? Allora, per quanto riguarda l'Ombudsman, assolutamente nulla, non c'è nessuna spesa, l'unica spesa ovviamente è la spesa postale che deve affrontare, ma insomma è una spesa relativa ai mezzi di trasferimento delle carte, ma l'Ombudsman è uno strumento gratuito per la clientela. Per quanto riguarda invece la conciliazione, nell'ipotesi in cui volesse intraprendere la strada della conciliazione, c'è qualche spesa in più che è dovuta soprattutto agli emolumenti che devono essere corrisposti al professionista, vale a dire al conciliatore di cui parlavo prima, e si pagano 30 euro per iniziare l'istruttoria e poi si paga in funzione del valore della controversia, vale a dire c'è una tabella che è allegata al regolamento presente nel nostro sito, maggiore il valore della controversia, maggiore il contributo e le indennità che pagano entrambe le parti, ovviamente nell'ipotesi in cui si aderisca alla conciliazione. Mi spiego meglio, nel momento in cui ci arriva un'istanza non è oggi obbligatorio da parte dell'intermediario aderire al tentativo di conciliazione, sarà poi obbligatorio, come diceva lei, da marzo del 2011. Oggi è ancora una procedura volontaria, quindi se l'intermediario aderisce inizia la procedura e solo in quel momento si dovranno pagare quelle indennità di cui parlavo, che sono, ripeto, allegate al regolamento di conciliazione. Allora, dicevamo prima, la decisione dell'ombudsman bancario è vincolante per la banca ma non per il cliente. La procedura che invece si attiva attraverso l'organismo di conciliazione bancaria tende a far raggiungere un accordo alle parti. Nicoletta Cottone, le decisioni invece dell'arbitro bancario finanziario hanno una natura vincolante per ricorrente e parte che invece riceve il ricorso, quindi la banca evidentemente? Allora, contro la decisione presa dal collegio, che può essere quello di Milano, Roma o Napoli, abbiamo detto, tutte e due le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria oppure agli altri strumenti previsti dall'ordinamento per tutelare i propri interessi. Tornando un attimo indietro, volevo dire che per l'invio del ricorso si può utilizzare la posta, il fax la posta elettronica certificata, oppure si può consegnare a mano nelle filiali della Banca d'Italia. Benissimo, quindi abbiamo aiutato un po' tutti, anche perché ecco, la mail magari è sicuramente ancora una via più facilmente praticata magari da un certo tipo di popolazione, ma ancora forse qualcuno non ha una grande dimestichezza e quindi chiede il canale tradizionale di invio, Nicoletta, giusto? La posta, quindi il fax, che ancora funziona presso molti uffici. Ci sono altre cose da ricordare relativamente alle liti, allo sportello e il ricorso all'arbitro bancario finanziario, perché per esempio anche c'è una casistica molto ricca, no, di conflitti che si scatenano e che possono finire appunto all'esame dell'arbitro. Sì, allora per esempio può esserci il caso della richiesta di cancellazione di ipoteca, che è una cosa diciamo che può interessare molti ascoltatori. Fra le decisioni dell'arbitro bancario finanziario c'è scritto che l'intermediario deve trasmettere entro 30 giorni al conservatore dei registri immobiliari la richiesta di cancellazione di ipoteca in caso di estinzione di un finanziamento. E la semplice dichiarazione della banca resa al cliente di disponibilità alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta non è sufficiente e il ritardo nella cancellazione effettiva dell'ipoteca è un presupposto per ottenere un risarcimento del danno. Questa è molto importante, perché insomma è un caso diciamo che può riguardare parecchie persone. Volevo tornare un attimo indietro poi e ricordare due cose, che l'arbitro bancario finanziario si occupa delle controversie fino a 100.000 euro se infatti, si chiede i tetti, sì, bravissima. Una somma di denaro, invece senza limiti se si chiede di accertare un diritto o un obbligo. Avvocato Tiracorrendo, ci sono anche dei limiti finanziari alle cause che possono arrivare all'ombudsman o all'organismo di conciliazione bancaria? Sì, c'è uno stesso limite di 100.000 euro che è riferito però, attenzione, al danno che viene richiesto e non all'operazione, ossia l'operazione può essere di qualche milione di euro, ma se il danno che viene richiesto rientra nei 100.000 euro è competente l'ombudsman. Per quanto riguarda invece la conciliazione non esiste alcun limite, vale a dire da zero fino al limite infinito di importo può essere soggetta al tentativo di conciliazione. C'è un ascoltatore che ci sta scrivendo, adesso ero un pochino distratta perché stavo cercando di interpretare questa segnalazione di questo ascoltatore che si chiama Carlo e che dice che l'arbitro bancario si rifiuta di esaminare un caso, evidentemente non ne ha la competenza, credo, spero che le abbiano dato appunto delle motivazioni corrette, perché la SIM non è iscritta nel loro archivio, si tratta di una primaria società nazionale, il giurì dice che è compito di arbitro bancario finanziario. Allora qui stiamo sempre parlando dell'ottica dei servizi di investimento. Nicoletta Cottone, allora i servizi di investimento sono comunque presi in esame dall'arbitro bancario finanziario oppure devono comunque finire all'ombudsman tutte le conflittualità, allora, che si possono scatenare in questa sede? Perché mi pare una precisazione importante da fare. L'arbitro bancario finanziario si occupa delle operazioni e dei servizi bancari ed esclude i servizi di investimento. Per cui è tutta cosa vostra, avvocato Tiracorrendo? Ma è molto probabile, sì, che sia, trattandosi di un servizio di investimento, sia probabilmente operatività in titoli, potrebbero essere compravendite di titoli o problemi di trasparenza nel collocamento, eccetera, è molto probabile che possa essere competente l'Ombudsman. Per cui, ecco, no, perché almeno Carlo, come dire, si tranquillizza per la risposta che l'arbitro bancario gli ha reso, non è di sua competenza, non è che si rifiuta di esaminare, ci sono delle competenze ben precise che sono stabilite anche dal punto di vista legislativo, per cui la risposta che gli sarà stata data sarà stata in questa, di quest'ordine. Avvocato Tiracorrendo, allora, siccome veramente questa mattina abbiamo fatto un puro ABC del funzionamento delle tre differenti vie che si possono percorrere per dirimere una controversia con la banca, ci siamo dimenticati di dire qualcosa di importante relativamente ai due organismi che voi gestite come conciliatore bancario, cioè l'Ombudsman e l'organismo di conciliazione bancaria? Ma una cosa interessante può essere qualche dato relativo alla conciliazione. Sì. Noi finora abbiamo gestito, da quando siamo nati, nel 2007 come organismo di conciliazione, abbiamo gestito circa 900 istanze di conciliazione, e la cosa interessante è che nel 94% dei casi trattati le parti hanno raggiunto un accordo. Questo evidentemente è merito dei nostri conciliatori, che sono persone, professionisti molto molto esperti in materia, specializzati ovviamente in materia bancaria e finanziaria, e sono riusciti a portare le parti ad un accordo anche in termini, devo dire, piuttosto contenuti quanto al tempo, circa 58 giorni, quindi si parla di tempi veramente contenuti. Le istanze che ci provengono in realtà provengono da tutti, vale a dire dai privati, dai consumatori, dalle imprese e in alcuni casi anche dalle banche stesse, cosa ad esempio che non è possibile in altre procedure. In alcune ipotesi sono gli intermediari che fanno per primi l'istanza di conciliazione, ma ovviamente nella maggior parte dei casi sono gli stessi clienti invece ad attivarsi. Benissimo. Sì, deve concludere? No, volevo dire che abbiamo circa 120 conciliatori un po' presenti in tutta Italia, quindi noi cerchiamo di avvicinare questo tipo di procedura proprio nelle località in cui sono presenti entrambe le parti, il cliente e l'intermediario. Benissimo. L'ultima cosa da dire è che la conciliazione è a 360 gradi quanto a materie, vale a dire, ecco, non esiste la suddivisione operatività bancaria, servizi di investimento. Qualsiasi controversia in materia bancaria e finanziaria può essere affrontata attraverso la conciliazione. Grazie all'avvocato Giuseppe Tiracorrendo, a Nicoletta Cottone del Sole 24 Ore, che questa mattina sono stati con noi. Se non avete capito delle cose, naturalmente c'è tutta la pagina di Affari Privati del Sole 24 Ore da poter consultare, il sito internet del Sole, appunto, che specifica ulteriormente degli aspetti che sicuramente stamattina ci saranno sfuggiti. Io vi saluto, Salvadanaio termina qua, torniamo domani. Buona giornata a tutti. Salvadanaio.